racconti, Zemmo? Attenzione gigante, Tore. Attenzione Bacchisio, Sione Bacchisio, cambio. Sione Tore, Tore, Tore. Attenzione Gian Maria. Ma com'è di città, dove? Guarda che c'è Bacchisio nella 27. Mari, aspetta che stavo chiamando Gian Maria. Attenzione Gian Maria. Tore, Tore. Eia. Dimmi Mari. Lo sto chiamando ma non mi risponde. Aspetta un attimino. Marino, ma in 27 stai chiamando? Allora, sono a mezzo aggiamento a te, a lui. E adesso mi risponde. Ma sicuro sì, già ti avevo inteso io, mi. Ma io sto chiamando, io ne sono sul 10. Ogni tanto mi spostavo e chiamavo. Boh, ha detto. Non posso più, non c'è nessuno. Ma va a chiamare a vedere. Ah, che io non ti ho inteso nella 27. Adesso chiamo. Marino, il 27 non ti senti? Adesso ti sento, buonasera, ben entrato. Sì, anche a lei, ma ora mi sento il 27, il 27 tu non ci sei. Io Focanzi, guarda, sono più di un'ora di più, in ascolto sul 10. Ogni tanto giravo sul 23, ma insomma chiamavo a te, a Tore, insomma risposto. Boh, va bene, non fa che nulla, avanti Bacchisio. Ehi, mi è acceso qua, però sentivo i radiamatori, non a te. C'erano radiamatori a tutto bomba. Ok, che c'è anche Gian Maria? No, c'è Tore, Tore sta chiamando Gian Maria, non so se c'è. Avanti Tore, fa chiamare Gian Maria. Ehi, aspetta, attenzione Gian Maria, deve essere che ha chiuso allora. Dopo caso ogni tanto chiamavo, boh, ma insomma ha risposto. Boh. Io l'ho sentito ma non ho fatto a tempo a rispondere. La problema è qui o ci spostiamo? Quindi voi? Non ho problemi io, avanti tu a chi? Gigante? Ehi, ehi, ehi, è così. Aspetta, ci metti mica. A chi? Problema è qui o ci spostiamo di là? Sione gigante, gigante, cambio. Io ti ho detto, dovevo stare qua o andare 27? Per me non c'è problema, per me va bene qui o di là? Non ne ho problemi io. Dove vuoi? Guarda, dammi una frequenza e io vengo. Andiamo 27, aiutore. Ok, 27. Il mio è già attivo, vai. Su che andiamo, Tore, dai. Marino. Attenzione, Roberto, se mi ascolti. Roberto, se mi ascolti, cambio.